È una situazione di grande sfiducia da parte delle istituzioni internazionali, in modo particolare sugli Stati Uniti da parte dei palestinesi, mentre c'è una piena empatia da una parte israeliana o da parte di una parte israeliana, a tal punto che il municipio di Gerusalemme, la sede del comune di Gerusalemme, naturalmente sotto amministrazione israeliana, ha una bandiera imbarazzante di 20 metri a stelle e strisce, il che lascia pensare una sovranità ridotta, però non si capisce da parte di chi verso di chi, nel senso se una sovranità ridotta da parte di Israele rispetto agli Stati Uniti o viceversa, insomma chi detta la linea a chi non è chiaro in questo senso. Da parte palestinese c'è la ricerca costante di nuovi interlocutori internazionali, ma solo che questi interlocutori nazionali mancano e c'è anche coscienza di questo. Questo ha dei riflessi notevoli secondo me sull'ultima generazione di ragazzi, perché ho notato rispetto agli anni precedenti o ai decenni precedenti una messa in cantiere, diciamo, di tutta quanta l'estetica dell'intifada. Sono ragazzi coscienti che il proprio sacrificio, la propria esistenza non ha più un'agibilità enorme nella coscienza pubblica internazionale, e per questo cercano anche nuove forme di resistenza e di lotta, cercando di non sacrificare inutilmente la propria esistenza e la propria vita perché il loro martirio non verrebbe compreso. In questo è stato per la prima volta un viaggio che ha fornito elementi diversi rispetto a quelli precedenti. Quindi anche un po' la chiamata di Hamas alla quarta intifada non ha così tanta presa? Ma innanzitutto bisogna vedere, perché Hamas è egemone sicuramente a Gaza, dove c'è un tentativo di riconciliazione nazionale portato avanti da altri, ed è meno egemone altrove. Bisogna capire che si intende per intifada. Se l'intifada classica delle pietre rimane, diciamo, a bassa soglia, nel senso che ogni giorno determinati campi profughi, in ogni giorno della Palestina esce un certo numero di ragazzi e ti rende assassate i gipponi, e parte di questi rimangono impallinati dall'esercito di occupazione israeliano. Che ci sia stata un'intifada vecchio stile, questo non è accaduto e dubito che accadrà. Basta vedere anche gli esempi che ci sono adesso, sono esempi di resistenza. Io non ho un giudizio su se violenta o non violenta, questo non mi ha mai riguardato. Io penso a Napoli, che è la città da dove vengo, che in 4 giorni ha cacciato un'occupazione militare con le fucilate, e quindi penso che sul nostro bagaglio storico non possiamo giudicare o avere dei paradigmi morali così rigidi sulle occupazioni militari altrui. Però noto per la prima volta una consapevolezza diversa, non è se migliore o peggiore rispetto alle precedenti, una consapevolezza diversa che il gioco si è fatto anche più difficile, che l'occupazione militare si è strutturata. Ad esempio, prima i checkpoint davano una sensazione di essere una cosa mobile, che un giorno sarebbero potuti sparire, adesso sono delle vere e proprie infrastrutture. E questo cambia, voglio dire, la coscienza dell'occupazione e della reazione all'occupazione. E i ragazzi che oggi ci sono cercano molto di più altre strade, che poi non sono ancora definite, non sono definibili, però insomma hanno chiaro che non vogliono dare gratuitamente la propria vita, non la vogliono così esporre perché rischia di non essere compreso il sacrificio. Sul versante della repressione dell'esercito israeliano hai notato un cambiamento, hai notato qualcosa? È totale, nel senso che mentre prima era ugualmente aggressiva, però era un'aggressività non strutturata, o quantomeno strutturata nell'occupazione, ma era un'occupazione anormale ancora, non così sistematizzata, adesso è molto più strutturata, ha delle cose abbastanza inquietanti, nel senso la lista che ho letto sul pezzo di Michele Giorgio, probabilmente ci sarà domani sul giornale, ieri l'aveva annunciato sul web, di una lista di ONG che non sono più gradite e che non avranno più l'agibilità, se ne parla di una trentina, tutte quante collegate al boicottaggio dell'economia israeliana, dall'idea che il monitoraggio di tutta quanta l'opposizione, del dissenso e la repressione di questo è diventata notevolmente più sofisticata. È un posto dove l'apartheid non solo è tangibile, ma adesso è anche normata. Mentre prima non era normata, adesso si fanno leggi e norme che sanciscono un diritto di cittadinanza subalterno rispetto a uno privilegiato. Questo è visibile e bisogna trovare il modo di denunciarlo. Ci hai parlato, insomma, di questa consapevolezza diversa, soprattutto dei giovani palestinesi. Che sbocchi vedono per, appunto, questa situazione? Una messa in discussione sicuramente totale della che forse la strada non è più quella dei due stati sovrani, perché uno non sarebbe mai così sovrano rispetto all'altro, di conseguenza una messa in discussione totale probabilmente della concezione di cittadinanza su quel luogo. È un discorso che comporta sacrificio, perché lì naturalmente si nasce politicizzati significa che appartieni a una famiglia politica, a una storia politica ben radicata nella resistenza, che ha un programma politico e non devi deragliare da quel programma politico. Però naturalmente anche il fatto di Gerusalemme capitale di Israele secondo gli Stati Uniti, rimette in discussione tutto quanto. La ANP è completamente fallita e anche gli affezionati alla ANP dicono che bisogna inventarsi qualcosa. Peraltro ci sono anche delle rimodulazioni abbastanza forti, nel senso bisogna vedere l'egemonia dell'Arabia Saudita, che di certo non difende i sunniti palestinesi, ma voci di corridoio lì raccontavano di alcune pressioni fatte sull'ANP affinché trattassero in maniera priva di pregiudizi, mettiamola così, su Gerusalemme. Quindi è uno scenario in continua evoluzione, non facilmente decifrabile, ma i palestinesi sanno stare nella contemporaneità molto più di quello che si pensi, quindi troveranno loro la loro strada per continuare ad esistere.